Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Un paio di settimane fa avevamo parlato di alcuni nuovi servizi che stanno nascendo sotto il segno della cosiddetta sharing economy, economia condivisa. Si tratta di un processo che da un lato è guidato dalle tecnologie delle telecomunicazioni che semplicemente hanno reso possibile fare cose prima impensabili. Anche solo condividere in auto in car sharing senza complicazioni, insomma non è così facile senza tecnologia. Dall'altro c'è un altro trend, l'emersione di nuovi bisogni da parte di categorie, i giovani, gli anziani e le famiglie che a loro volta si stanno trasformando. E dopo aver parlato soprattutto dei nuovi servizi dedicati agli anziani, questa sera parliamo di quanto di nuovo sta nascendo intorno ai giovani e alle famiglie e alle loro nuove necessità. Per parlarcene è tornata a trovarci Anna Meroni, professore appunto di design dei servizi al Politecnico di Milano ed esperta di innovazione sociale. Buonasera, bentornata Meroni. Buonasera. Senta, c'è una parola chiave che contrassegna, almeno questa diciamo è la sua visione, molte iniziative nate dai giovani e anche per i giovani. Parola chiave che, guarda un po', è temporaneità. La temporaneità è una sfida, non è necessariamente un cataclisma, lei dice. Assolutamente, il fatto che da giovani siamo tutti più mobili, abbiamo voglia di essere meno stabili sulle cose è una situazione che va incoraggiata anche con delle soluzioni ad hoc. Per esempio, quando studiamo non sempre abbiamo tempo di lavorare a tempo pieno, anzi non l'abbiamo, quindi perché non trovare delle soluzioni per lavorare nel modo e nel tempo in cui possiamo? C'è un bel servizio a New York City, che è nato a New York City e ora si sta espandendo, si chiama Agent Anything, che permette a delle persone che hanno bisogno di un piccolo aiuto, di una commissione, si dice da noi, di avere degli studenti che la fanno per loro, ovviamente retribuiti, con la massima flessibilità e in un rapporto di fiducia e di trasparenza garantite anche sul piano poi, diciamo, formale. Formale, fiscale e così via. Formale, insomma. Fiscale e quant'altro, quindi in assoluta tranquillità. Ed è una specie di piattaforma che crea un libero mercato fra questi due, fra chi cerca e chi offre, indirizzandosi particolarmente agli studenti. Sta funzionando molto bene e si sta espandendo velocemente. Perché non farlo anche da noi? Ma forse qualcuno ci starà anche pensando, speriamo, insomma. Quello che infatti sta succedendo è che da noi i giovani i mestieri se li devono inventare. Per esempio c'è un'iniziativa molto bella, una startup appena avviata che si chiama SlowD, che è una piattaforma che mette in contatto designer che producono degli oggetti e quindi i loro progetti con gli artigiani che le realizzano e con i potenziali acquirenti che possono scegliere il prodotto e farlo realizzare dall'artigiano più vicino a casa loro. Quindi quasi un'intermediazione fra competenze e domanda di servizi, di beni. Assolutamente, un'intermediazione molto creativa che recupera anche il lavoro artigianale. Infatti, che diversamente va perduto e permette le personalizzazioni del prodotto, permette creazioni di collezioni assolutamente limitate ma di valore, insomma c'è molta creatività in questo mondo. C'è anche un mercato, quello delle auto d'epoca, dove qui in Italia per una volta abbiamo forse un buon esempio da fare. Assolutamente sì, per la serie appunto connettere il meglio del passato al meglio del futuro stiamo lavorando in questi mesi con dei giovani carrozzieri che hanno ereditato una carrozzeria che fa restauro di auto d'epoca e quindi di grande valore, che vogliono coniugare questa competenza antica con le nuove tecnologie della stampa tridimensionale. Certo, perché trovare un pezzo di ricambio per un'auto d'epoca è quasi impossibile, no? Trovarlo originale. È impossibile, e non solo, stanno associando questo al formare dei giovani che abbiano questa capacità pratica coniugata poi anche alla creatività e al sapere tecnico. Parliamo un attimo di nuove famiglie invece, quali sono i bisogni emergenti e quali alcune possibili risposte? Beh, questi poveri giovani la famiglia prima o poi se la fanno, magari a modo loro, ma un po' più tardi. Ovviamente il tema più grande è capire dove e come si va a vivere da qualche parte. Allora, già quando si è studenti, in qualche modo il co-housing in case di studenti è un modo di vivere accettato e anzi piacevole. E molto spesso questo va avanti, prosegue anche nella vita delle giovani famiglie, quindi sono sempre di più i casi di co-housing che stanno nascendo in veste bottom up, quindi per iniziativa dei gruppi che si vogliono poi creare il loro co-housing, o per iniziativa di studi che fanno da facilitatori della nascita di questi gruppi. Ecco, senta, però mi scusi, ma le cooperative ci sono sempre state. Una volta ci davamo i passaggi, adesso lo chiamiamo carpooling. Una volta si conviveva fra studenti, adesso lo chiamiamo co-housing. Ecco, ma non è che alla fine tutto cambia e nulla cambia, o invece c'è qualche elemento di novità vero in questa sharing economy di cui tanto si parla? Ma lei sta dicendo che è una bolla? Forse ha ragione, no, però non è una bolla, è proprio un cambiamento di significato, mi permetto di dire, perché appunto le tecnologie che hanno portato alla nascita della sharing economy hanno rivoluzionato il significato di queste azioni di condivisione, che oggi vengono fatte in modo autodeterminato, consapevole e laico molto spesso, quindi non necessariamente per condivisione di una motivazione, bensì di uno scopo. Grazie Anna Meroni. Grazie a voi, buonasera. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani.